Buonasera, buonasera, buonasera. Dite con me buonasera, buonasera, buonasera. Ancora, ancora. Ancora, ancora, ancora. Ancora. Buonasera Upside Down, buonasera, buonasera, buonasera. Come stiamo? Come sta andando questo mese di febbraio? Ciao Oli. Olimpia è una mia amica, quindi salutiamo tutti Olimpia per piacere. Perfetto, perfetto. Claudio, eccolo! Ok, ok, ok. Insomma, questo mese di febbraio ne abbiamo sentiti di tutti i colori. Tra equazioni, amputazioni. Amputazioni, davvero, Wanyu? Veramente di amputazioni si è parlato. Di macchie nel water, marroni, che non sono cioccolato, possiamo dire di averle sentite veramente tutte, vero o no? Come no? Infatti no, perché stasera ne sentirete delle altre, quindi vi chiedo di stare molto attenti e di essere pronti ad ascoltare quello che Dio ha da dirci. Io ho bisogno di due volontari. Luca? Sì, sì, Luca è la persona giusta, bravo me. Luca? E Andrea, perfetto, verrà benissimo questo gioco. Allora, voglio chiedere, ecco, perfetto, perfetto. Il gioco consiste nel darmi tre aggettivi ciascuno per questa foto. Iniziamo da Andrea. Maschettino è un aggettivo. Mi piace. Cosa, di cosa ti parla? Vabbè, diciamo arenata. Arenata? Arenata. Jack e Rose lì. Jack e Rose? Poi anche... un po' squilibrata, nel senso di squilibrio. Squilibrata. Mi piace. Quindi ricordati, arenata. Jack e Rose. Jack e Rose. Vai. No, no, no. Devo essere spontaneo. Vai, Luca. Allora, sinceramente, la prima cosa che mi dà è, cioè, disordine. Non so perché, però disordine. Ragazzi, devo essere spontaneo. Va benissimo, Luca. Grazie, Mario. Che altro? Non lo so, disordine è la parola che mi viene, l'unica disordine, cosa che mi viene. Disordine, sì. Per tre. Per tre. Ok, perfetto, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Grazie. Quindi disordine per tre sono i tre aggettivi di Luca. Grazie. Ricordiamoci questi tre aggettivi, eh? Quindi ricordateveli, perché sono importanti, ci torneranno utili nell'arco della serata. Ora invece, questa immagine, di cosa ti parla? Ah, ok. Perfetto. Questa distanza... Ho il potere adesso. Va... Questo è lo scettro. Vai, di cosa ti parla questa immagine? Tranquillità, diciamo. Tranquillità. Poi anche arancione. Arancione. Barca, fine. Barca non è un aggettivo. Barcato. Tranquillità. Arancione, poi diciamo anche... acquoso, ecco. Acquoso, mi piace. Quindi, tranquillità, arancione e acquoso sono i tre aggettivi per Andrea. Per me invece è serenità, come diceva lui un po'. Poi il termine, perché il tramonto è il termine di una giornata. Bellissimo. Sei un poeta. Grazie. E poi, essendo una barca a vela, è spinta dal vento, quindi trasportato. All'Accademia della Crusca lo devo mandare a questo. Oh. Bravo Luca, bravo Andrea, grazie, grazie. Non ha vinto nessuno, non era un gioco, va benissimo così. Ricordiamoci di queste immagini e delle parole che ognuno di noi ha pensato associate a quelle immagini, quindi perché ci torneranno utili nell'arco di questa serata. Stasera, come nell'arco di questo mese, tratteremo un tema che è il tema cardine per noi Upside Down, ma non solo nel mese di febbraio, ma per tutta la nostra vita. Stasera si parla di purezza. Stasera parleremo di quella cosa che è un po' scomoda, che non sempre ci viene facile, che ci mette un po' in difficoltà, che è difficile essere puri oggi, parliamo onestamente, è difficile essere puri oggi. E sinceramente anche per me è difficile essere puro oggi. Ogni giorno scelgo di fare delle scelte di purezza. E ogni giorno guardo i miei amici, guardo le persone più grandi di me, le persone che sono nella mia cerchia, guardo le persone in TV, sono circondato di persone che magari non fanno le mie stesse scelte. E questo cosa mi porta a pensare? Ma perché loro lo possono fare e io non lo posso fare? Perché loro sì e io no? Perché loro sì e io no? E questa è una domanda che io mi sono fatto qualche anno fa e il Signore mi ha risposto. Mi ha risposto come Lui sa rispondere. Mi ha detto: apri la Bibbia e vai in Romani 8. Il versetto, il 5, dal 5 al 6. E dice questo. Lo leggiamo insieme. Infatti, insieme noi e il microfono, insieme tutti quanti, capito? Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito, ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo spirito è vita e pace. Vita e pace. Io ogni giorno mi trovo davanti a questa scelta. Devo scegliere. Cosa voglio seguire? Voglio seguire il mio spirito o voglio seguire la carne? E dico, voglio vivere o voglio morire? Ogni giorno noi ci dobbiamo fare questa domanda. Cioè non è una scelta che noi prendiamo una volta nella vita e poi non la prendiamo più. No, è una scelta che io tutti i giorni devo prendere. E noi siamo chiamati ogni giorno a prendere la scelta di pensare alle cose dello spirito. Se vogliamo avere una vita che ci porti alla pace. Se vogliamo avere una vita che ci porti alla morte, le scelte sono altre. Quindi dipende da come noi scegliamo di vivere. Dipende da come noi scegliamo di vivere. E non vi nascondo, come ho già detto, che non è un combattimento che dura un round. No, è un combattimento che tu prendi e porti avanti per tutto l'arco della tua vita. E sicuramente ci saranno dei momenti in cui tu ti sentirei più stanco. Io ci sono dei momenti in cui mi sento stanco, in cui mi sento debole, in cui dico, forse oggi non mi sento tanto in forma, oggi non sto tanto... Li viviamo tutti questi momenti o li vivo solo io? Cioè ci sono dei momenti dove, dei giorni che tu ti alzi, dici, oh Gesù, fa piacere, ma è visto... Ci sono dei momenti che tu vuoi fare questo, cioè mi sveglio solo io, la mattina mi sveglio certi giorni, dico... Devo fare il tempo personale, me lo devo imporre di leggere la Bibbia, perché a volte non la voglio aprire, perché non sto a posto. E quando viviamo questi momenti, ci dobbiamo ricordare un'altra cosa. Un'altra cosa che Dio mi diceva di dirci stasera. E questa è solo la premessa a quello che mi ha detto di dire a noi stasera. La premessa, quello che Lui ci dice, che noi facciamo parte di un corpo. Tu non sei solo. Il dito non è solo nella mano. La mano fa parte di un braccio. Il braccio fa parte di un corpo. E Gesù molto spesso parla della Chiesa nella Bibbia come di un corpo. Molto spesso Lui parla nella Bibbia di noi come se fossimo un corpo. Noi siamo collegati. Praticamente, noi siamo collegati. Il dito, se la mano non muove il dito non si muove. La mano dipende dal mio polso, il mio polso dipende dal mio braccio, il mio braccio dipende dalla mia spalla. Se io voglio portare il dito da qua a qua, il mio dito ha bisogno del braccio, altrimenti non ci arriva, altrimenti non ci arriva. Ed è scritto nella Bibbia, non lo sto dicendo io, ed è scritto in Corinzi. Corinzi 1 Corinzi 12:12 dice... Poiché come il corpo è una e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cristo. Noi siamo un unico corpo. Quando io sono debole, so di poter contare sul mio pastore, di poter chiamare il mio pastore, di poter cercare il mio pastore. Quando io sono debole, io so di poter contattare Michael. Quando io sono debole, so di potermi appoggiare ad altre persone. Il combattimento che Gesù ci ha messo davanti, il combattimento che noi viviamo nella nostra vita, non è un combattimento in solitaria. Altrimenti sarebbe questo. Il combattimento che noi viviamo è questo. Noi non facciamo niente così. Se tu vuoi stendere uno, come lo picchi? Cioè il cazzotto, tu glielo dai così. O glielo dai così. Io non ho mai dato cazzotti nella mia vita, lo ammetto. Però io, quando vedo i film, vedo che quando danno un pugno è tutto il corpo che si muove. Quindi se tu vuoi vivere questo combattimento e lo vuoi vivere con una prospettiva vincente, sappi che non sei solo. Noi non siamo soli. Il problema che stai vivendo, sentimentale, quel problema che ti fa sentire sporco, che non ti fa sentire all'altezza, non lo stai vivendo da solo. Non tenertelo dentro. Noi siamo un corpo. Conta sulla persona che è al tuo fianco. Conta sul tuo fratello, conta sul tuo leader, conta sulle persone intorno a te. Altrimenti che senso ha? Altrimenti perché stiamo qua? Non siamo soli. Quando questa consapevolezza è entrata a far parte della mia vita, ho capito tante cose e sono cresciuto molto. Ho conosciuto di più Gesù, perché prima pensavo di poter leggere la Bibbia e vivere la mia relazione con Gesù. E questo mi ha fatto conoscere Gesù, sì. Poi però ho potuto e ho saputo, ho voluto confrontarmi con altre persone mentre leggevo la Bibbia e mentre vivevo delle situazioni, e questo mi ha portato a vedere il mondo con una prospettiva diversa. Mi ha portato a vedere la mia stessa vita con una prospettiva diversa. E questo non è una cosa che io vivo, è una cosa che è scritta nella Bibbia. Ci sono storie nella Bibbia che parlano di questo. La Bibbia è piena di storie, di fratellanze, di amicizie, di leader con dei discepoli. La Bibbia ne è piena. E io personalmente stasera, questa era la premessa alla predica, mo inizia quello che davvero ho bisogno di dirvi stasera, perché il Signore me lo sta facendo esplodere nel cuore. Io sono innamorato di una storia della Bibbia. Io amo Elia ed Eliseo. Sono due grandi personaggi biblici, sono due grandi profeti del Vecchio Testamento, sono due uomini che hanno fatto la storia, sono due uomini, due servi di Dio che hanno fatto la differenza. Chi li conosce? Qualcuno? Tu, Mary, sei sicura? Sei sicura? 10 anni fa. Confermo, c'ero pure io quando li ho conosciuti. Elia ed Eliseo, qualcuno mi vuole dire qualcosa su Elia? Si ricorda qualcosa su Elia? Liberamente. Marco, allora, in questo momento devi cercare di far capire a chi non conosce Elia, chi è Elia. Allora, Elia era un fuori di testa, completamente, almeno per quello che ha fatto, e ha sfidato dei profeti di un Dio qualunque per dimostrare che Dio era il vero Dio, facendo piovere fuoco dal cielo, cioè facendo cose matte. E lui, diciamo che ha finito la sua carriera ascendendo su un carro di fuoco e lasciando ad Eliseo il suo mandato. Perfetto, facciamo un applauso a Marco, perché gli è brava davvero, Agno, gli è brava davvero. Elia era un pazzo, cioè Elia era un pazzo, ha fatto piovere il fuoco dal cielo, non lui, Dio lo ha fatto. Ma la sua fede ha portato Dio a guardarlo con degli occhi diversi. Ha detto, cusa, dai, perché? Cioè, Elia ha sgozzato 850 profeti, falsi profeti, che professavano un Dio che non era il vero Dio. Quello si arrabbia, li ha sgozzati, che cazzotto. Li ha sgozzati 850. Esordisce nella Bibbia con una preghiera. Cioè, lui fa una preghiera. Dice, Signore, tu non farai piovere fino a quando io non pregherò di nuovo. Per 3 anni e mezzo non ha piovuto. E c'è Giuliacci, cioè Wanyu, non ha fatto piovere per 3 anni e mezzo. Un pazzo, cioè questo era Elia. Elia era un pazzo. Come se non bastasse, un'altra. Elia ha resuscitato un bambino. Ha resuscitato un bambino. Cioè un bambino era morto, lui è andato là, ha pregato e il bambino è resuscitato. Cioè cose che noi le vediamo sempre, vero? Cioè sono cose vere. Cioè ha resuscitato, è un pazzo, Elia era un pazzo. Per me sta in uno dei posti più alti del mio cuore. Io amo Elia. Questo era Elia. A un certo punto, è una cosa importante, è il significato stesso del nome Elia. Il nome Elia vuol dire il Signore è Dio. Il Signore è Dio. Nel suo nome c'era la sua missione. Dio conosceva così bene Elia da mettere nel suo nome la sua missione, perché tutto quello che ha fatto era per dimostrare che il vero Dio era il Signore. Questo era Elia. Questo era Elia. A un certo punto, mentre lui stava nella sua carriera, il boss, cioè il Signore, gli fa una chiamata e gli dice, il Signore gli disse, in Uno Re, capitolo 19, dal 15 al 16, il Signore gli disse, va, rifà la strada del deserto fino a Damasco e quando vi sarai giunto, ungerai Hazael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele e ungerai Eliseo, figlio di Safat, da Abel Meola, come profeta al tuo posto. Questa era la missione che il Signore ha affidato ad Elia. Elia questo doveva fare. Elia questo doveva fare. Cosa fa? Lui, che era uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, si sente dire dal Signore che doveva andare ad Abel Meola a ungere un certo Eliseo come profeta al suo posto. Voi immaginate che il Signore vi dice, Luca, tu da domani devi andare a Canucia, quel mezzo alla piazza, che vai a quello e lui deve prendere il tuo posto, deve vivere a casa tua, deve fare quello che fai tu, tutta la tua vita. E tu, non lo so, poi vediamo che cosa fai. Cosa faresti? Come reagiresti? Ma veramente devo dire al Signore, ma veramente me lo sta a dire? Cioè io la stessa cosa, io ho detto, secondo me Elia a un certo punto gli fa al Signore, Signore, ma veramente? Cioè, e come è? Io ho fatto tutto, e vieni quello al posto. Vabbè, va bene. Elia da schiavo, servo di Dio, non tentenna. Non ha un attimo di dubbio, ma subito si lancia nella missione che Dio gli ha dato. Si lancia nella missione che Dio gli ha dato e questo è quello che succede dopo. Elia partì di là e trovò Eliseo, figlio di Safat, il quale arava con 12 paia di buoi davanti a sé ed egli stesso guidava il 12° paio. Cioè, Elia sente da parte del Signore di andare da questo Eliseo a dargli tutto quello che lui sapeva, tutto quello che lui era, e si trova davanti un ragazzo, sui buoi, ad arare il terreno. L'ultimo della fila, 12 paia di buoi davanti a sé, e lui è l'ultimo della fila ad arare il terreno. Il Signore mi parlava chiaramente, in questo verso mi faceva vedere proprio molto chiaramente, proprio in questo verso mi faceva vedere chiaramente e mi faceva vedere noi Upside Down, prima di conoscere Gesù noi eravamo tanti Eliseo, eravamo chiusi nella nostra vita, stavamo vivendo la nostra vita. Ogni mattina ci svegliavamo, facevamo il nostro lavoro, aravamo il nostro terreno, avevamo cura degli animali, facevamo quello che ogni persona farebbe. Un lavoro che poi, tra l'altro, è anche un lavoro pesante. Quindi immagino che la vita di Eliseo non doveva essere una vita agiata. Sicuramente non era un benestante. Arava il terreno, si svegliava la mattina e arava il terreno. Questa era la vita di Eliseo. E prima ancora che Eliseo guardasse verso Gesù, guardasse verso Dio, il Signore lo aveva consacrato come uno dei maggiori profeti della sua storia. Perché il Signore aveva detto che Eliseo avrebbe preso il posto di Elia. Ed Eliseo sta varando il terreno. Quindi se sei qua ed è la prima volta che vieni e tu non conosci Gesù, non hai una relazione con Gesù, non, per relazione intendo non preghi magari tutti i giorni, non leggi la Bibbia, non conosci quel Gesù che è vivo, questo potresti essere tu. Eliseo potresti essere tu. E scusatemi se sono crudo, però il Signore mi dice di fare così. Forse stai vivendo la tua vita, stai arando il tuo terreno, ti stai prendendo cura bene di quello che tu sai fare, di quello che tu devi fare, ma sappi che il Signore ha un piano molto più grande per te. Il Signore ha un piano molto, ma molto più grande per te. Molto più grande. Non fermarti ad arare il tuo terreno. Non accontentarti di quello che tutti i giorni fai. Non accontentarti del tuo lavoro. Perché il Signore può riscattare la tua vita. E per riscatto non intendo, non voglio dire che il Signore ti darà un bellissimo lavoro, ti darà tanti soldi, ti farà vivere una vita agiata. No. Il Signore riscatterà la tua vita perché ti darà una vita eterna. Questo è il perché tu sei qua. Quindi se sto parlando a quelle persone che stanno tentennando, vogliono capire se davvero Gesù fa per loro, questa è la risposta. Gesù fa per te. Altrimenti l'alternativa è che continuerai ad arare il tuo terreno per tutta la vita. E vi chiedo ancora scusa se sono crudo, però devo esserlo, perché qua stiamo parlando di vita o di morte. Vi ricordate il combattimento? Per cosa vuoi vivere? Per lo spirito o per la carne? Se continui ad arare il tuo terreno, continuerai a vivere per la carne. Ma se stasera scegli di lasciare e di guardare Gesù, la tua vita cambierà. La tua vita cambierà. Però il Signore mi faceva ancora soffermare su questo verso e me lo faceva vedere in un'altra ottica. Mi faceva guardare noi upside down. Noi che possiamo dire di conoscere Gesù, di pregare, di avere una relazione con Lui, partecipiamo ai live, agli incontri domenicali, ai gruppi, magari serviamo. Abbiamo una relazione con Gesù, no? Sta parlando anche a noi. Questo verso, me lo puoi riproiettare per favore? Questo verso parla anche a noi. Parla anche a noi perché? Perché a volte capita che ci ritroviamo molto lentamente a scorrere e ad essere gli ultimi della fila, a sentirci appesantiti, a portare avanti una vita, nonostante Gesù, che ci sembra pesante, che è pesante. Io e Michael oggi abbiamo fatto 3500 cose. Io non mi sono fermato da stamattina alle 6, mi sono svegliato e posso dire di essere stanco fisicamente, però non mi sento stanco da voler stare indietro. La mia stanchezza mi ha portato a venire qua stasera e a parlare di Gesù, perché io so che non voglio stare dietro, io voglio essere avanti. Io voglio trascinare, non voglio essere trascinato. Io non voglio essere trascinato. Quando inizi a vivere quel tipo di stanchezza, vuol dire che su di te c'è un peso. Su di te c'è qualcosa che sta pesando e quel peso sono i tuoi peccati. I nostri peccati sono il peso che ci stanno spingendo sempre più indietro nella fila. E se sei l'ultimo della fila, non riuscirai mai a vedere dove stai andando. Andrai sempre dietro alla persona che è davanti a te e magari quella persona è la persona sbagliata. Apriamo gli occhi. Upside down, apriamo gli occhi. Apriamo gli occhi e se stasera stai vivendo un peccato, sai nella tua mente che c'è quel peccato che ti sta piano piano pesando sempre di più e ti sta facendo andare indietro. Stasera è il momento di toglierlo. Stasera è il momento di toglierlo, perché altrimenti continuerai ad arare il tuo terreno. Ma quella non è la tua chiamata. Quella non è la tua chiamata. Il Signore ha una chiamata molto più grande per te. Il Signore vuole renderti un profeta. Il Signore vuole renderti un predicatore. Il Signore vuole renderti un pastore. Il Signore vuole renderti un trascinatore. E sto parlando a noi. Cioè, tu che ascolti, stai ascoltando, è a te. È a te. Anche se sei qua per la prima volta, è a te, è a tutti noi, a tutte le persone che sono sedute qua. Voi immaginate se ciascuno di noi si liberasse di quei peccati, quella sporcizia, e corresse per Gesù. Cioè l'Italia noi la rivoltiamo. Questo è quello che succede quando scegli per Gesù. Questo è quello che succede quando scegli per Gesù. Ma non devi farlo da solo, perché il prossimo verso è chiaro e ci dice che Elia si avvicinò a lui e gli gettò addosso il suo mantello. Non sei solo in questa scelta. Non sei solo in questa scelta. C'è un Elia che è pronto. Mi puoi mandare quella frase? Hai un Elia che sa dove portarti, a cui non interessa chi sei stato, ma che conosce perfettamente chi sarai. Hai un Elia a cui non interessa chi sei stato, quello che eri prima, quello che facevi prima, non fa niente. Non fa niente chi eri prima. C'è una persona, un leader, il tuo capogruppo, se sei in un team, il tuo team leader, c'è qualcuno sopra di te, il tuo pastore, la tua autorità, che è il tuo Elia, a cui non interessa chi sei stato. Non fa niente. Io so dove ti devo portare, perché il Signore ha messo in me una visione chiara. Io so dove ti devo portare, io so che ti posso dare tutto, ma tu devi lasciare i tuoi peccati. È un lavoro di coppia. Se tu non lasci i tuoi peccati, il tuo Elia non ti potrà portare da nessuna parte e tu rimarrai incatenato alla condizione in cui sei. Apriamo gli occhi, upside down. Se stai vivendo un peccato sessuale, se fai sesso prima del matrimonio, se ti masturbi, se vedi film pornografici, se fai tutte quelle cose che la tua carne ti porta a fare, stasera te ne devi liberare. Stasera te ne devi liberare, perché hai un Elia che ti vuole portare in tutt'altri territori, ti vuole portare in alto, ti vuole portare molto in alto. Apri il tuo cuore, apri la tua mente, apri i tuoi occhi, lascia entrare la parola di Dio dentro di te. Quella che stai vivendo, quella pesantezza che stai vivendo, non è per te. Il Signore ti vuole dare altro. Il Signore ti vuole dare altro. Tu non sei schiavo della pornografia. Tu non sei schiavo di queste cose. Tu sei schiavo di Gesù. Tu sei suo servo. Tu sei suo servo. E se hai una persona di riferimento, io ti invito adesso a prendere il tuo telefono. Prendiamo i telefoni, tutti quanti. Cellulare, sì, sto chiedendo durante una predica di tirare fuori i cellulari. E potete non aprire l'app Bibbia. Ok. Vai su WhatsApp e trova il tuo leader. Trova, per leader io intendo, se fai parte di un gruppo, no? Il numero del tuo capogruppo. Se non ce l'hai, prendilo dalla chat del gruppo in cui sei. Se non ce l'hai, se non sei nella chat, manda un messaggio alla persona che ti ha portato in chiesa e chiedili il numero del tuo leader. Se non c'è il telefonino, sputa addosso al tuo leader. Fatti vedere. Mandali un messaggio. Se hai qualcosa da confessare al tuo leader, e devi farlo per arrivare a quei territori che Dio ti ha promesso, mandali un messaggio, mantellami, cioè buttami il mantello. Elia ha buttato il mantello su Eliseo, mantellami. Siamo pronti? Io non vi vedo a te. Oh, one news che dice, chi spiegna chi ho? Lo dico in inglese. I was again a finish. Noemi, che ride a fa? Quella ride. Lei mi ha dato ripetizioni. Scrivete un messaggio, mantellami, perché hai bisogno di una copertura spirituale. Io so, per me è stato difficile prendere delle scelte. Io so che ho avuto bisogno di un leader su di me che mi aiutasse a prendere delle decisioni. Abbiamo bisogno dell'aiuto dei nostri leader. Posso mandarlo pure io, scusate, che io a dirlo a voi mi sono scordato. Un attimo. Io lo devo mandare a 6 persone, scusatemi. Ci sono tanti leader. Mantelami. Ok. Alla fine lo mando agli altri, se no perdo troppo tempo. Mantellami. Fatti mantellare dal tuo leader. Fatti mantellare dal tuo leader, perché è bello. È bello quando ti fai mantellare. È bello perché ti sai di poter contare su qualcuno. Sai di poter contare su quella persona che è un punto di riferimento per te. Tutti abbiamo bisogno di un punto di riferimento. Elia aveva bisogno di Eliseo. Eliseo aveva bisogno di Elia. Tutti abbiamo bisogno di un punto di riferimento. Il tuo punto di riferimento in questo momento è il tuo leader. E se tu hai dei peccati, confessali a lui, fatti aiutare da lui. Mi mandate il messaggio? Tutti? Bravissimi. Bravi Upside Down, bravi. Vi voglio bene, vi voglio bene. Il verso va avanti e dice questo. Sempre in 19:20 dice: Eliseo, lasciati i suoi buoi, corse dietro a Elia e disse: ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò. Elia gli rispose: va e torna, ma pensa a quel che ti ho fatto. Cosa mi fa capire? Che Eliseo era più pazzo di Elia. Cioè Elia era il pazzo che diceva Eliseo. Diceva Eliseo, è profetico Marco, te lo assicuro, che diceva Marco. Eliseo è pazzo perché arriva uno così, ti butta il mantello addosso, Eliseo cosa fa? Gli corre dietro, non per dire oh, ma dire ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e a mia madre e poi ti seguirò. Cioè se a te arriva un estraneo e ti butta il cappotto addosso, che fai? Cioè io questo mi sono chiesto, veramente raga, veramente. Cioè Eliseo è un pazzo perché capisce subito che quel mantello rappresenta tanto e capisce subito che quella è la sua chiamata. Deve lasciare quello che sta vivendo per seguire Elia, perché Elia è la risposta magari alle sue preghiere. Questo non è scritto sulla Bibbia, noi non sappiamo se Eliseo credeva o non credeva a Gesù, però io so che Eliseo è stato pronto a lasciare tutto e ad ascoltare il suo leader. Ascolta il tuo leader. Se il tuo leader ti dice di lasciare i tuoi amici, non è perché ti vuole vedere da solo. È perché sa che magari i tuoi amici ti spingono oltre quella che è la tua resistenza. Se il tuo leader ti dice, secondo me, tu devi lasciare la tua ragazza, non è perché le è venuto il pricio di dirti che tu devi lasciare la tua ragazza perché è geloso. No. Lui ti sta dicendo questo perché sa che se tu vuoi crescere con Dio e vuoi arrivare ai traguardi che Dio ha per la tua vita, tu in quel momento devi essere single. Devi essere per Gesù e per nessun altro. Questo è quello che Eliseo fa. Eliseo cosa fa? Non è che dice, me vabbè, sì, lo faccio. Eliseo lo ascolta. Eliseo ascolta Elia. E noi siamo chiamati ad ascoltare i nostri leader. Quindi riprendiamo il telefono in mano, tutti quanti. Basta, a te te lo mando dopo, mantellami, che mo non... Sono a sacco. Devo fare una lista broadcast, diciamo. Ok. Mandiamo il messaggio al nostro leader e ringraziamolo. Ringraziamolo perché lui ci vuole aiutare. Quindi dici grazie perché mi aiuti. Ci siamo? Non so, dove ho fatto. Grazie perché mi aiuti. Perché Elia in realtà sta aiutando Eliseo, gli sta porgendo una mano, lo sta tirando fuori da una situazione pesante. Non perché Elia voleva tirarlo fuori, ma perché il Signore l'aveva comandato ed Eliseo si è lasciato trascinare fuori. Lasciati trascinare dal tuo leader. Lasciati trascinare dal tuo leader. E l'ultima parte del verso è questa. Dopo essersi allontanato da Elia, Eliseo tornò a prendere un paio di buoi e li offrì in sacrificio. Con la legna dei gioghi dei buoi fece cuocere la carne e la diede alla gente, che la mangiò. Poi si alzò, seguì Elia e si mise al suo servizio. Quello che devi fare è prendere i tuoi peccati, non accontentarti stasera di lasciarli nell'appuntamento che dovrai fare dopo quel mantellami, perché il mantellami sta a rappresentare un impegno che tu hai preso col tuo leader di confessare quello che è duro per te da confessare. Magari stasera non è l'occasione, stasera siamo tanti. Prenditi un appuntamento col tuo leader. Il mantellami è un impegno. Il mantellami è un impegno. Quindi voi leader che avete ricevuto il messaggio mantellami, siate pronti ad essere disponibili per i vostri ragazzi. Perché insieme dobbiamo crescere. Eliseo torna indietro, prende i peccati e li brucia. Brucia i peccati, brucia i buoi, brucia la sua vita pesante, brucia ogni cosa, e dopo aver bruciato ogni cosa, si mise al servizio del suo leader. Stasera siamo chiamati a fare una scelta, a bruciare i nostri peccati, a bruciare i nostri peccati e a metterci al servizio del nostro leader. Questa è la scelta che noi stasera dobbiamo prendere. Mettiti al servizio del tuo leader. Non criticarlo. Se magari il gruppo non va come tu vuoi, vorresti fare altro, non criticare il tuo leader, non dire, ma vedi quello che qua non si mangia mai per quelli del mio gruppo. Lo so, scusate, non mi criticate, portate voi da mangiare. Non criticate il vostro leader, aiutatelo, siate di supporto per lui. Questa è la collaborazione, queste sono le scelte che ci portano a crescere. Se hai qualcosa da confessare, fallo. Se hai qualcosa da lasciare, lasciala. Aiuta il tuo leader e fatti aiutare da lui. Aiuta il tuo leader e fatti aiutare da lui. E se non sei in un gruppo stasera e non sapevi a chi mandare quel messaggio, vai da Mary e Michael stasera e fatti inserire in un gruppo. Chi è che non sapeva a chi mandare il messaggio stasera? Marco? Chi altro? Qualcun altro non sapeva a chi mandare il messaggio, mantellami? No, no. Com'è? Hai alzato la mano. Andrea, a giocare. Che mo' è leggero, non te lo faccio a togliere. Va bene, Saverio. Mettiti al servizio del tuo leader. Mettiti al servizio del tuo leader. E per concludere voglio dirvi una cosa. Voglio raccontarvi una cosa che io ho vissuto. Ed è una cosa che nessuno sa. La sappiamo solo io e il mio leader. Io e lui. Punto. Non la sa più nessuno. Però stasera, siccome questa cosa porta gloria a Dio e vi può far capire quanto Dio è grande, io voglio raccontarla a tutti. E non mi vergogno. E non ho vergogna. Anzi, sono fiero di poterla raccontare. Nel 2013 avevo iniziato a venire in chiesa e mi stava iniziando a piacere. Venivo già da qualche anno, però non avevo preso delle scelte radicali con Gesù. Non avevo preso delle scelte giuste con Gesù. Nonostante ciò, sentivo un trasporto, sapevo di dover seguire Gesù, sapevo che Lui era la soluzione a tanti miei problemi, sapevo che Lui poteva sollevare la mia vita, poteva farmi uscire dal terreno che io stavo arando e poteva portarmi dove io volevo arrivare con Lui. E così ho scelto di battezzarmi e mi sono battezzato. Era il 21 luglio del 2013. Il giorno della mia nuova vita, io sono nato di nuovo. Sono nato di nuovo. Ad ottobre di quello stesso anno, qualcosa è venuto a minarmi, è venuto a bussare alla mia porta. E non era Gesù. E non era Gesù. Io avevo fatto delle scelte per Gesù così forti, lo volevo così tanto, che al diavolo questa cosa non andava bene. E lui ha fatto una mossa verso di me. E c'è stata una ragazza. che mi è venuto a bussare alla porta. E io che cosa dovevo fare? Dovevo stare fermo? No, non sono riuscito a stare fermo. Così ho iniziato ad uscire con questa persona, ho iniziato a frequentarla, pensando di poterla portare in chiesa, pensando di farle conoscere Gesù. Dicevo, magari si converte, magari conosce Gesù, magari posso aiutare lei a conoscere Gesù. E invece quello era un gioco troppo pesante per me. E il diavolo ci ha scherzato e mi ha fatto male. Perché io ho sbagliato e ho fatto sesso con questa ragazza. Dopo essermi battezzato, dopo aver scelto Gesù, io sono caduto. Sono caduto e mi sono fatto male. Tanto, tanto male. Quello che è successo è che la sera stessa sono stato malissimo, ho pianto da morire perché mi sentivo sporco, sentivo di essere stato preso in giro, sentivo che qualcuno mi aveva fregato qualcosa di più grande, qualcosa che io non potevo recuperare. E la prima cosa che ho fatto, sapete cos'è stata? Mandare un messaggio, mantellami, al mio leader. Ho mandato un messaggio a questa persona, che è il mio pastore, lo posso dire, perché ne vado fiero. Ho detto, pastore, io ho sbagliato, ho bisogno di aiuto. Vediamoci, ti prego. E lui non ha tentennato un attimo. E ci siamo visti. Io ho confessato quello che avevo fatto, non ho avuto paura. Non ho avuto timore di confessare quello che avevo fatto. Perché sapevo che il diavolo stava scherzando e che io dovevo metterci un punto, altrimenti avrebbe continuato a scherzare e io non sarei solo tornato ad arare il mio terreno, ma ci sarei finito sotto quel terreno. E così ho confessato al mio pastore. Il mio pastore non mi ha giudicato. Non mi ha detto, tu hai sbagliato. Non mi ha detto, perché hai fatto questo? Non mi ha detto, tu non vai bene. Mi ha ascoltato e mi ha amato. Mi ha amato. E prego il gruppo Lode di salire sul palco. E mi ha amato. E sapete cosa mi ha detto? Mario, punto. Gira la pagina è bianca. Se tu hai sbagliato nella tua intimità, se tu stai sbagliando nella tua intimità, mettici un punto e gira la pagina, perché c'è una pagina bianca, tutta nuova, che Dio vuole scrivere nella tua vita. Io ci sono caduto e mi sono fatto male, e stasera la sto muovendo io la mossa al diavolo, perché con quello che io ho detto, io prego che tanti di noi possano evitare di cadere come io sono caduto. Se stai vivendo una situazione in bilico, fatti aiutare. Cerca aiuto. Cerca aiuto. Chiama il tuo leader. Fatti prendere da lui per mano e fatti portare dove lui ti vuole portare. Non avere paura. Non avere paura di cercare il tuo leader. Lui non ti giudica. Lui ti vuole ascoltare. Lui ti vuole amare. Se non vieni in chiesa e senti un peso dentro di te perché dici, io sto facendo qualcosa che mi fa male, Mario, io mi sto drogando, io sto andando di male in peggio, vieni da me, vai da Sara, vai da Michael, vai da Mary, vai da Anella, vai da qualcuno, da chi ti ha portato in chiesa, confessa il tuo peccato. Perché il diavolo ha bisogno di essere svergognato. Il diavolo ha bisogno di essere svergognato. E stasera è il giorno che noi dobbiamo svergognare il diavolo. Perché lui ci ha svergognato troppe volte nella nostra vita. Ha giocato troppo spesso con i nostri sentimenti. Basta. Sara, mi mandi la prima foto. Questo è quello che è successo. Ricordate gli aggettivi di questa foto? Ve li ricordate? Questa è una barca, è una nave che non è più stabile, ha perso stabilità, sta per affondare, non ha più il controllo, è disequilibrata, sta sbandando. Il mare è calmo, ma la barca sta affondando. La barca sta affondando e questo ero io. Questo ero io nel bel mezzo della tempesta che ho vissuto, quando stavo affondando. Io stavo affondando. E voglio chiedere a tutti quanti di alzarsi in piedi. Però poi dopo ho capito il significato dell'andare a confessare a qualcuno l'opera che il diavolo stava facendo in me. E vedete quei... Mandami l'altra. E vedete quei pesi che la nave sta portando, quelli sono i nostri peccati. Non ce n'è uno in mare. Rimangono tutti sulla barca, Manu. I pesi non li perdi così. I tuoi peccati non vanno via se tu non scegli di buttarli. I pesi che stai portando su di te non vanno via se tu non scegli di buttarli. E poi ho confessato. E quando ho confessato mi sono sentito così. Mi sono sentito così. Vi ricordate gli aggettivi di questa foto? Arancione, acquoso. Mi sono sentito così. Pace, serenità, calma, leggero, libero, pronto a navigare, pronto ad andare. Pronto ad andare, finalmente ero pronto ad andare. E poi quando ho parlato col pastore e lui mi ha dato delle indicazioni, mi ha detto: Mario, elimina quella ragazza dalla tua vita, allontanala, allontana quella ragazza dalla tua vita. Non è lei per te, è un peso troppo grande per te. Chiudi ogni ponte con questa persona, chiudi ogni ponte con questa persona e mettiti di testa sulla Bibbia e mettiti in ginocchio e prega Gesù. Lui mi ha detto queste cose. Dal momento in cui lui mi ha detto queste cose, da quel giorno io non ho fatto altro che quello che lui mi ha detto di fare. Io mi sono messo al suo servizio e ogni giorno scelgo di mettermi al servizio del mio pastore Sara. Ogni giorno scelgo di mettermi a servizio dei miei leader, lasciando i miei peccati e mettendomi al loro servizio. Sapete cosa è successo da quando io mi sono messo al loro servizio? Eh? Questo. Che io l'acqua non la tocco più. Io non navigo. Io voglio volare. Io voglio volare sull'acqua. Noi, Wanyu, siamo chiamati a volare sull'acqua. Non siamo chiamati a una crociera leggera, a una barca a vela, tranquilla, pace. Noi siamo chiamati a fare questo. Noi li passiamo da sopra le altre barche. Upside down, noi siamo un popolo che deve passare, deve volare sulle altre barche. Noi i peccati non è che li lasciamo, noi li bruciamo. Questo è quello che stasera dobbiamo fare. Questo è quello che stasera dobbiamo fare. Brucia i tuoi peccati e prendi il volo. Prendi il volo perché quella è la tua chiamata. Quella è la nostra chiamata. Noi non siamo chiamati ad essere pesanti, in bilico, che quasi stiamo affondando. No, il Signore ha un Elia per noi che ci vuole portare a volare. Ci vuole portare a volare. E quindi vi chiedo di chiudere tutti quanti gli occhi e di cercare. È di cercare la presenza di Gesù. Pensa a Gesù. Pensa a Gesù. Pensa a Gesù. Allontana ogni peso. Pensa a quel peccato. Pensa a quella cosa che ti sta tenendo incatenato la gamba, il braccio, che non ti vuole far arrivare a Gesù. E tu dici: Signore, io voglio venire, ma c'è questo peso, questo legame, questa cosa che mi sta trascinando. Come faccio a venire da te? Come faccio a venire da te? E il Signore mi dice: che c'è un Elia su di te, un leader pronto a venire da te e a spezzare quelle catene per farti arrivare da Gesù il prima possibile. Il prima possibile. E voglio pregare per questo. Signore, io ti voglio davvero ringraziare. Grazie Gesù. Grazie Gesù per la nostra chiesa. Grazie Gesù per questa serata magnifica. Grazie Gesù per come tu parli ai nostri cuori. Grazie Gesù per come tu hai riscattato le nostre vite. E grazie Signore per le vite che riscatterai stasera qui, Signore, davanti ai nostri occhi, Gesù. Io confido fermamente in te, Gesù, e nel fatto che tanti stasera, tanti upside down, sceglieranno di mettersi sotto il mantello di un Elia che è pronto a portarli dove loro non sono mai arrivati. Signore, io ti voglio pregare che ogni legame, ogni catena, tutto quello che ci tiene legati al peccato, Signore, stasera possa andare via. Che la pornografia, il sesso, la masturbazione, Signore, possano essere troncati stasera, Signore. E noi possiamo schiacciare sotto i nostri piedi questi peccati, Signore, che ci vogliono tenere distanti da te, Gesù. Noi vogliamo venire da te, Gesù. Noi vogliamo venire da te, Gesù. Noi vogliamo abbracciarti, Signore. E io sì, ti prego stasera, Gesù, che possiamo scegliere di abbandonare ogni peccato. Ti prego per il nostro cuore, Gesù. Ti prego che possa essere pronto ad abbandonare ogni peccato, perché noi siamo chiamati a volare. Noi siamo chiamati a volare, Gesù, nel tuo nome santo, Signore. Amen. Amen. E io non voglio chiederti di venire qui davanti stasera, ma voglio chiederti, se hai qualcosa nel tuo cuore che ti sta fermando, guardati intorno e cerca il tuo leader. Guardati intorno e cerca il tuo punto di riferimento. Vacci a parlare. Prenditi un minuto per pregare. Non serve confessare in questo momento, perché so che è difficile. Se ti senti di farlo, fallo, ma prenditi almeno un minuto per pregare con il tuo leader. E voglio che lo facciamo adesso. Quindi usciamo dalle file, muoviamoci upside down e liberiamoci da ogni peccato stasera. Preghiamo con i nostri leader affinché possiamo essere leggeri e pronti a volare.